sole d'oro, l'amore mai più. Dime che non mi sta a ingannare, il sogno mio d'amore per sempre sei tu. Nessuna al mondo più cara di te. T'amo, sei tu mio grande amore, la vita del mio cuore. Se solo.